Prego. Allora, volevamo sapere se hai idea cosa è successo qui in Piazza Fontana. Sì. Ah sì, sì. E c'è stata la strage di Piazza Fontana. E al causa del fascismo ho dei ricordi a livello di scuola secondaria superiore, del liceo classico. C'era stato, come si chiama, non era il delitto Matteotti, no? E c'erano... al grandi linee. E c'erano le brigate rosse, c'entravano se non sbaglio, Moro, qualcosa. Ma questa strage? Sì. Cos'è? Cosa ti hanno detto di questa strage? E che... chi sono i responsabili, se sai... Ah... Beh, è avvenuta in Piazza Fontana, quindi da lì ha dato il nome. Nel periodo del fascismo, quindi siamo nella Seconda Guerra Mondiale, e c'entra Mussolini, perché Mussolini aveva fatto, forse per le elezioni, aveva ordinato che fossero ammazzati i suoi dissidenti politici. Siamo anche nel periodo dei partigiani. A grandi linee ricordo che c'era stato un delitto. Quindi nel periodo tra il 1935 e il 45. Ma forse uno dei dissidenti, no, però non c'è De Gasperi, no. Beh. Volevamo sapere se sapete cosa è successo qua in Piazza Fontana nel 1969, 40 anni fa. Allora, io so che...